Buongiorno, buona mattina. Come avete sentito poco fa, la morte di Giovanni Agnelli, confermata da più parti. La prima notizia arrivata in redazione veniva dalla questura di Torino, poi poco fa l'agenzia ADN Cronos ha confermato con un breve flash la morte di Giovanni Agnelli. Sentiamo innanzitutto la biografia a cura del nostro Gian Marioli. Giovanni Agnelli nasce a Torino il 12 marzo 1921. Porta lo stesso nome di suo nonno, fondatore nel 1899 della Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, ma quasi a sottolineare uno stile meno austero si fa chiamare Gianni. Il creatore dell'impero di famiglia muore nel 1945. A succedergli alla presidenza è Vittorio Valletta, mentre il giovane Gianni assume la carica di vicepresidente. Gli anni del dopoguerra coincidono con il momento di maggiore sforzo per il paese, che culminerà con il boom degli anni 60. A simboleggiare il benessere diffuso saranno proprio due prodotti con marchio Fiat, la Lambretta prima e la 600 poi. Nel 1954 Agnelli si sposa con la principessa Marella Caracciolo di Castagneto, da cui avrà due figli, Edoardo e Margherita. Gianni Agnelli si inserisce con sempre maggior forza all'interno del gruppo, divenendone amministratore delegato dal 63 e presidente dal 66. Dal 74 al 76 è presidente della Confindustria. Alla fine degli anni 70 la Fiat conosce un momento di crisi, la produttività cala spaventosamente e l'azienda annuncia 14.000 licenziamenti. È il più duro scontro sindacale del dopoguerra, con uno sciopero lungo 35 giorni che si conclude con la rinuncia ai licenziamenti e la messa in cassa integrazione di 23.000 dipendenti. Negli anni 80 Agnelli, affiancato da Cesare Romiti, rilancia la Fiat in campo internazionale e in pochi anni la trasforma in una holding con ramificazioni nel campo dell'editoria e delle assicurazioni. Nel giro di due anni, fra 87 e 88, la Fiat assorbe Alfa Romeo e Ferrari. Il nome di Agnelli è legato a doppio filo anche ai successi sportivi, con la Juventus e la stessa Ferrari. Nel 91 è nominato senatore a vita, nel 96, 30 anni dopo l'assunzione della carica, cede la presidenza della Fiat a Cesare Romiti, mantenendo il titolo di presidente onorario. Gli ultimi anni sono caratterizzati dal dolore per la scomparsa per malattia dell'amatissimo nipote Giovannino, erede designato alla guida del gruppo, e del figlio Edoardo, morto suicida nel novembre del 2000. Questa dunque è la biografia di Giovanni Agnelli. Ormai tutte le agenzie mondiali hanno confermato la morte di Giovanni Agnelli poco fa, un personaggio che ha attraversato indubbiamente moltissimi anni della storia contemporanea, sia per quanto riguarda l'economia sia per quanto riguarda la politica. Cominciamo a sentire alcune delle brani dei moltissimi suoi discorsi pubblici. Ad esempio una parte di un intervento in cui Giovanni Agnelli parla dell'11 di settembre, dicendo che quei drammatici fatti avevano testato comunque la resistenza di un sistema economico occidentale che ha saputo reagire alla crisi. Il ricordo dunque attraverso la sua voce. Giovanni Agnelli, 11 settembre. Credo che si possa dire, tuttavia, che tra gli effetti inattesi e positivamente sorprendenti dei drammatici eventi dell'11 settembre vi sono importanti segnali. Non di allontanamento e arretramento, ma di rafforzamento della volontà di perseguire l'integrazione e di coordinarla più efficacemente. Per la prima volta abbiamo assistito all'attivazione rapida, globale e coordinata delle grandi autorità monetarie mondiali, Federal Reserve, Banca Centrale Europea, Banca d'Inghilterra. Anche le politiche di bilancio si sono mosse, certo, non con la stessa incisività, la stessa omogeneità, la stessa rapidità. Nel nuovo complesso, le politiche economiche hanno comunque arginato i timori di collasso di breve termine dell'economia. Ancora non abbiamo certezze su quel che potrà avvenire nei prossimi 6 o 9 mesi. Con uno sguardo più lungo non può non cogliere carattere incoraggiante. La voce di Giovanni Agnelli poco dopo l'11 di settembre. Noi siamo collegati con Castronovo, un storico che ha conosciuto in questi anni il sistema Fiat e molto bene anche l'importanza di questo uomo. Buongiorno, buona mattina Castronovo. Pronto? Pronto? Buongiorno, buona mattina Castronovo. Ah, buona mattina anche a voi. Ecco, dunque, l'importanza di Agnelli, dicevo prima, una figura che ha attraversato indubbiamente moltissimi anni della storia contemporanea, sia dal punto di vista dell'economia naturalmente, che dal punto di vista anche politico. Ma insomma, l'avvocato Agnelli, nato nel 21, ha attraversato direi due terzi della storia del Novecento. Era dal 66 alla guida della Fiat, dopo il ritiro di Valletta, che aveva gestito, diciamo, l'interregno tra la scomparsa del fondatore della Fiat e il senatore Agnelli, avvenuto nel 45, e appunto l'avvento sulla scena del nipote. L'avvocato Agnelli ha rappresentato, diciamo, non solo la Fiat, l'ammiraglia del capitalismo italiano, ai vertici del firmamento del capitalismo, del nostro capitalismo, è stato anche una sorta di ambasciatore del nostro paese in rapporti internazionali, soprattutto negli Stati Uniti, dove aveva delle amicizie in ambienti economici, finanziari, ma anche politici. Basterà ricordare i suoi rapporti di amicizia con i Kennedy, con Kissinger, e direi che in pratica aveva fatto una scommessa 4-5 anni fa, quella della internazionalizzazione della Fiat attraverso un'alleanza strategica, quella che poi si è realizzata nel marzo 2000 con l'intesa, attraverso l'intesa con la General Motors. Direi che non ha fatto oggi in tempo appunto a vedere l'esito di questa scommessa, che poi a cui era legata e da cui dipendeva la sorte e il destino della Fiat. Però va detto che con la riunione della comandita, dei vari soci, dei vari membri della famiglia Agnelli, che si sarebbe dovuta tenere stamattina, in pratica aveva messo un punto fermo rispetto alla rida di illazioni, di voci, di congetture che circolavano sull'atteggiamento, sugli orientamenti della famiglia. Alcuni davano per scontato l'abdicazione della famiglia Agnelli, il suo ritiro dalla scena, e invece tutto sommato c'era sempre stata concordanza di vedute fra lui e il fratello Umberto, non c'erano state quelle tensioni per motivi particolari di interesse di cui molti parlavano, e oggi in pratica la famiglia si sarebbe ritrovata compatta e unita e solidale intorno a Umberto, designato appunto dall'avvocato. Non era la prima volta, l'aveva designato nell'84, certo, prima del 93, alla guida della Fiat. Quindi la scomparsa dell'avvocato avviene in un momento in cui però viene riconfermata la continuità, la centralità e il rinnovato impegno della famiglia Agnelli quale azionista di riferimento del gruppo torinese. Grazie a Valerio Castronovo in diretta su Radio 24 e Sole 24 Ore. Stiamo commentando da alcuni minuti la scomparsa di Giovanni Agnelli, e ora ci colleghiamo con Torino, dove c'è la nostra Erika Petromilli. Buongiorno, buona mattina Petromilli. Sì, buongiorno anche a voi. Ecco, appunto, Torino oggi si è svegliata con questa notizia, la scomparsa dell'avvocato Giovanni Agnelli, il simbolo, se vogliamo, non solo della Fiat, la fabbrica principale di Torino e forse anche dell'Italia, ma il simbolo proprio di tutta la città. Per Torino Agnelli era stata una figura carismatica, la figura che ha caratterizzato buona parte del Novecento, lui come persona e anche insomma lui in quanto rappresentante di questa grande fabbrica. Una fabbrica che, lo ricordiamo, stava vivendo un momento difficile, ci sono stati avvicendamenti al vertice del consiglio di amministrazione, ma l'avvocato Agnelli, nonostante la sua malattia che l'aveva portato spesso anche negli Stati Uniti per delle cure, non aveva mai abbandonato questa sua creatura, possiamo chiamarla. Ecco, proprio questa mattina ci sarebbe stato un altro avvicendamento, quello al vertice dell'azienda. Questa mattina in via Chiabrera, nel centro storico della Fiat, si riunisce infatti la comandita della famiglia Agnelli, che riunisce i sei fratelli, i nipoti e anche la famiglia Nasi. Proprio questa mattina ci sarebbe stata, diciamo così, una sorta di passaggio di testimone al fratello Umberto. E per il momento da Torino è tutto. Grazie ad Erika Petromilli, sono le 8:58 minuti e 42 secondi. Naturalmente proseguiremo per tutta la giornata ad informarvi, a ricordare la scomparsa di Giovanni Agnelli, già a partire dal prossimo giornale radio, sempre su Radio 24, Il Sole 24 Ore.